L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale vi riportiamo al Cibus Tech, una fiera che abbiamo molto seguito qui a Radio 24, specializzata nella innovazione tecnologica nel settore alimentare. Quindi a Parma in quei giorni si trovava un po' di tutto in fiera, si parlava di ingredienti, di tecnologie di processo, di packaging, di logistica, per tutte le tipologie di prodotti. Noi abbiamo scelto di parlare in questa puntata di carne e in particolare di imballaggio e lavorazione sostenibile delle carni, lavorazione che va fatta nel rispetto del prodotto e con una attenzione alla riduzione dello scarto sia in fase di produzione sia ovviamente nei nostri frigoriferi. Parliamo di tutto questo con i due ospiti che sono stati con noi a Cibus Tech nell'intervista che abbiamo realizzato quindi negli studi che Radio 24 aveva all'interno della fiera. Ci troviamo al Cibus Tech, dove oggi è stato il Meat Day, quindi il giorno della carne, e quindi il nostro ospite, per così ricapitolare la giornata e focalizzarci su alcuni aspetti che sono più specifici del mondo della sostenibilità, che è quello che è proprio di questa trasmissione, sono François Tomei, che è il direttore di Asso Carni, e diamo il benvenuto anche a Didier Marteau, che si occupa in particolare di packaging. Lui è il direttore marketing per la sezione carni rosse di Sealed Air, che è appunto un'azienda multinazionale che si occupa specificamente di questo, di impacchettamento alimentare e non alimentare. Esattamente. Allora, benvenuti a tutti. Grazie, anche a voi. Allora, direttore, cominciamo intanto dal settore. I numeri del settore sono in calo da qualche anno, ricapitoliamoli per i nostri ascoltatori e poi vediamo quali sono le attenzioni che ancor più oggi vanno riservate al prodotto carne. Ma guardi, proprio due giorni fa il Censis ha fatto una ricerca, ha reso noto i risultati di una ricerca sul food, in particolare sulle disuguaglianze che stanno risorgendo nell'alimentazione italiana, e quindi hanno verificato che molte famiglie, diciamo, meno abbienti oggi risparmiano sulle proteine nobili, sulla carne, sul pesce e anche purtroppo sulla frutta e la verdura. Quindi vediamo che c'è da un lato una crisi ormai che si è consolidata e quindi la diminuzione di questi consumi è in parte legata quindi a questa crisi ormai che dura da moltissimi anni. Dall'altro però vediamo invece un consumatore che è cambiato, che è evoluto e che ha delle attenzioni maggiori rivolte all'ambiente, rivolte alla sostenibilità, al benessere degli animali, alla salute. E quindi il nostro compito come industria è quello di rispondere a queste esigenze. Oggi abbiamo si tratta di un compito di trasparenza richieste. Nel momento in cui è ovvio che tutta una serie di aspetti di sicurezza alimentare sono un prerequisito che il consumatore giustamente si aspetta, e noi comunque in Europa e in Italia abbiamo delle norme assolutamente elevatissime da questo punto di vista, poi però non è ovviamente sufficiente. Quindi sul fronte della sostenibilità siamo impegnati già ormai da 6-7 anni a lavorare affinché l'impatto proprio della carne, diciamo, da un lato mettere in evidenza quali sono, fotografare l'impatto della carne sull'ambiente italiano e europeo, perché troppo spesso noi leggiamo sommariamente dati, diciamo, un po' fantasiosi sull'impatto di un hamburger, di una bistecca che sono molto lontani dalla realtà europea e italiana, dove da molto tempo ci sono degli sforzi. Quindi sono dati internazionali che arrivano da altre aree geografiche? Esattamente, perché è ovvio che laddove non c'è una attenzione, come in Europa, all'agricoltura, noi sono 50 anni di una politica vera e propria rivolta all'agricoltura, rivolta all'allevamento, e un'attenzione all'uso delle deiezioni, all'uso dell'acqua e tutta una serie di norme imposte al mondo agricolo e all'allevamento che fanno sì che l'impatto ambientale dell'allevamento e poi quindi anche della stessa carne sia nettamente più basso rispetto a quei paesi in cui non c'è nessuna politica agricola che è volta poi a risolvere problemi di questo tipo. Poi ci sono una serie di anche dicotomie su questi temi ambientali, perché ad esempio noi sappiamo che un allevamento, diciamo, confinato come quello praticato ad esempio in Italia ha un impatto ambientale più basso di un allevamento ad esempio estensivo, dove non c'è nessuna attenzione ad esempio sul recupero delle deiezioni. Esistono oggi delle certificazioni internazionali che le nostre aziende cercano ovviamente di ottenere, anche se oggi c'è poca comunicazione nei riguardi del consumatore degli sforzi che vengono fatti. Quindi c'è come dire, oggi un'assenza di comunicazione su questi temi. C'è un'assenza di comunicazione o c'è, mi ci metto dentro anch'io come giornalista, una poca voglia di comunicarli? Forse è più facile farsi trascinare da altre... Ma no, in realtà ci sono delle rigidità normative che per molto tempo hanno impedito al settore della carne, soprattutto la carne bovina, che è al centro un po' dell'attenzione sull'aspetto sostenibilità, perché le rigidità normative impedivano di comunicare aspetti diversi da quelli prescritti dalla normativa. Oggi è più semplice lavorare su questi aspetti e comunque siamo impegnati da anni su... Allora, adesso io credo che sia il momento di fare intervenire anche l'altro nostro ospite. Tra gli aspetti che voi potete comunicare, quindi sicuramente c'è anche quello del confezionamento, no? Se ne è parlato oggi, uno gira la confezione, dietro può trovare tante indicazioni. Una di queste in futuro potrebbe essere, di Didier Marteau, quella del tipo di confezionamento di cui si è parlato oggi, cioè quello skin. Allora, cominciamo col descrivere di che si tratta, perché non lo dobbiamo confondere ad esempio con altri tipi di confezionamento. Io in maniera molto ignorante sono arrivata e ho capito che l'atmosfera modificata è tutta un'altra cosa. Spieghiamolo. Ok, tenterò di spiegare in modo semplice. Allora, lo skin, di solito quando si parla di skin... Non skin, so che lì. Vuol dire pelle. Esatto, effetto skin praticamente, prima di tutto, è sottovuoto, per cui una confezione per consumatore, unita a consumatori, sottovuoto, tale per cui fa proprio un effetto pelle attorno al prodotto, per cui skin è sottovuoto, ma effetto pelle e che permette di vedere molto bene il prodotto, molto ben definito. Questo è lo skin, che si trova molto, molto in Italia, anche molto sulla carne, e anche sul pesce congelato, ad esempio. Invece si distingue da quello che chiamiamo l'atmosfera modificata, l'atmosfera protettiva. Sono confezioni che dentro hanno avuto un'iniezione di gas del tutto normale, ossigeno, CO2, per dare una certa conservazione al prodotto. Di solito sono confezioni che sono quelle che si vedono in gran maggioranza ancora nei supermercati, con un certo spazio di testa, con un certo volume che è maggiore di quello, quello dello skin, per cui il prodotto è un po' meno visibile attraverso un film trasparente e ha un volume un po' maggiore, per cui è un po' il distinguo tra i due sistemi è un po' quello. E anche si distinguono nel momento in cui li apriamo, no? Perché cioè, avete parlato sì. Anche di questo, dell'impatto sì. Visivo, olfattivo che ci può essere ad aprire una confezione sì. Di un tipo o di un altro. Sì. E in effetti lo skin, pensiamo che lo skin è un sistema di imballaggio, di confezionamento del presente e anche del futuro, sempre di più, lo vediamo in vari paesi europei e anche in Italia tramite la Coop, ad esempio. E diciamo sì, si svilupperà sempre di più questa parte. La differenza è che se lo vediamo sulla carne, che noi siamo abituati a vedere la carne in queste confezioni tipo con polistirolo bianco e carne che è molto molto rossa. Invece lo skin non vede una differenza, vede un colore un po' diverso della carne, che non è assolutamente un problema, è solo legato a aver creato un vuoto, ha fatto cambiare il colore della carne. Quando lo si apre la confezione, dopo qualche minuto riprende il colore. Per cui è assolutamente un sistema quindi naturale. L'assenza di aria. L'assenza di ossigeno. Di ossigeno provoca il cambiamento. Esatto, cambia il colore, che poi è del tutto reversibile, del tutto naturale, per cui che i paesi dove hanno molto skin, come in Inghilterra, hanno molto successo, perché tutti i benefici di questo pacco detto skin, superato il problema del colore per il consumatore, una volta che è stato un po' educato, lì si è stato spiegato il perché il colore, che è reversibile, La gente ricompra perché per un altro vantaggio molto importante, specie sulla carne rossa, che avendo un sistema sottovuoto che permette una conservazione di più lunga durata, allo stesso momento permette di frollare la carne. Cosa vuol dire? Frollare la carne vuol dire fare una forma di chiamiamo maturazione e di intenerire la carne, di nuovo in modo naturale, non ci sono conservanti, additivi, il sottovuoto è di nuovo il sistema del futuro che darà qualità e darà, però va spiegato al consumatore, una garanzia, una possibilità di avere un prodotto migliore a fine durata che non all'inizio perché è stato frollato, per cui si è intenerito naturalmente. Che vantaggio dà nei tempi di conservazione? Allora, in generale per un numero molto semplice, diamo da 1 a 2, diciamo se l'atmosfera modificata a seconda dei paesi del sistema, ma diciamo fa 7, 8, 10 giorni di conservazione, il sottovuoto col bovino diciamo va al doppio, va a 20 giorni, 18, 20 giorni, quindi dipende, però noi quando ci facciamo dei calcoli diciamo da 1 a 2 il rapporto di durata di conservazione, per cui è un impatto molto, molto, molto importante. È molto importante, no, direttore, immagino anche per voi, perché comunque si tratta di lavorazioni che combattono anche gli sprechi. Esatto, esatto. Allora, innanzitutto è un tassello in più a quegli aspetti di sostenibilità di cui parlavamo prima, quindi come diceva lei, è da un lato meno confezione, meno spreco perché il prodotto ha una vita più lunga e quindi diciamo il consumatore oggi adesso Coop ha fornito dei dati in questo nostro convegno molto preoccupanti, cioè il nostro consumatore in realtà spreca in casa, cioè noi questo è tipico dei paesi sviluppati, esatto, i dati ci dicono che alla fine l'industria si sforza di non sprecare, lo fa anche la distribuzione organizzata che naturalmente ha anche degli obblighi legati all'igiene, perché poi anche noi dobbiamo mettere su una bilancia che la sicurezza alimentare di un prodotto prevale anche sull'aspetto di spreco, no? Nel senso che prima di tutto io devo offrire un prodotto sicuro e buono al mio consumatore, poi naturalmente mi devo sforzare di comprare le dosi giuste, devo sforzarmi di io come industria fare un prodotto che abbia anche una vita più lunga. Ci fermiamo per un attimo, proseguiamo la nostra conversazione tra pochissimo. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali. Verso la diretta non-stop del voto che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta e proseguiamo nell'intervista con i due ospiti che abbiamo ascoltato già nella prima parte di questa puntata. Sono François Tomei, direttore di Assocarni, e Didier Marteau, direttore marketing di Sealed Air, azienda multinazionale specializzata negli imballaggi. Didier Marteau a sua volta è specializzato nel settore delle carni rosse. Abbiamo parlato con lui di imballaggi skin, parola inglese che significa pelle, e che si riferisce al confezionamento delle carni che poi troviamo nel supermercato sottovuoto. È un tipo di confezionamento già molto diffuso in Gran Bretagna e in Svizzera, sta arrivando adesso anche da noi, consente di conservare le carni più a lungo, di vederle meglio, almeno per noi consumatori, rispetto alla solita vaschetta, e anche di frollarle nel tempo in cui rimangono sottovuoto. Ma per un pieno successo ci vuole molta attenzione, e allora riprendiamo il discorso con i nostri ospiti e cominciamo da François Tomei. Questo nuovo diciamo modo di confezionare la carne ci porta diciamo a rispondere anche a delle esigenze del consumatore moderno che ha meno tempo sia per cucinare, ha meno tempo per fare la spesa, e il nostro compito e anche quello del distributore è quello di insegnare ad apprezzare la o a riapprezzare la frollatura della carne, quella che noi chiamiamo in italiano la frollatura, che in termini diciamo anglosassoni è la maturazione della carne. Quindi la carne diventa più tenera, più buona anche, e questo tipo di confezionamento in maniera del tutto naturale contribuisce a far maturare la carne. Quindi questo è l'aspetto innovativo e molto importante. E come diceva Didier prima, c'è l'aspetto naturalmente sul quale bisogna anche lavorare con il consumatore, quindi l'aspetto diciamo di educazione, cioè far capire al consumatore, guarda che in realtà quel prodotto si riossigena, no? E quindi ritorna ad uno stadio normalissimo, però con il vantaggio della durata e del gusto e della maggiore tenerezza. Quindi questa è una sfida, perché noi abbiamo visto oggi in questa giornata di riflessione che il nostro consumatore è un consumatore comunque abbastanza complesso, nel senso che banalmente non possiamo dire che c'è solamente la crisi, ma è che dal 2008 attanaglia diciamo effettivamente le famiglie italiane, però nello stesso tempo è pronto a spendere di più su alcune cose e non su altre, si aspetta comunque di avere delle risposte sull'ambiente, sul benessere degli animali e quindi sul biologico, vediamo anche la crescita del prodotto biologico e quindi tutto questo va a volte un po' in contraddizione con magari gli aspetti economici. Quindi ecco, ci rendiamo conto che in realtà questo consumatore dobbiamo saperlo interpretare e non è diciamo così banale. E il nostro driver rimane diciamo il consumatore, quindi noi sì, oggi... poi è un consumatore che paese per paese è diverso. Prima mi ha colpito molto sentir dire che i consumatori mediterranei preferiscono prendere in mano una vaschetta calda che una vaschetta fredda. E già lì ti fa capire che c'è un abisso tra noi e un tedesco, insomma, che quindi chi lavora nel settore deve tener conto di milioni di fattori diversi. In effetti noi come industria di imballaggio siamo investendo molto nella parte di conoscenza del mercato che si muove molto velocemente, paese per paese c'è una macro tendenza che è abbastanza simile in tutta Europa, però paese per paese stanno a trovare che la condizione, l'imballaggio giusto al momento giusto, sapendo che la tendenza va verso lo skin, però come interpretare l'imballaggio giusto fatto in modo leggermente diverso da paese a paese è assolutamente così, per cui sì, bacino mediterraneo, la gente è diversa, ama toccare più il prodotto, ha il senso di caldo della confezione. Nel nord sono da anni su confezioni di pura plastica trasparente. Sì, anche appese appunto come un espositore di caramelle, mentre in Italia sarebbe per noi molto difficile immaginare di frugare cercando dietro magari la fettina della misura del peso che cerchiamo noi, no? In effetti suona tutto molto diverso. È proprio così, è immaginare e avere delle risposte di tipo di imballaggio che risponda a tutta questa molteplicità di bisogni è anche molto interessante, però rende anche un po' complicato sapendo che appunto il consumatore cambia molto e ha una velocità sempre maggiore, per cui è sempre un adattarsi, però con delle proposte. Di nuovo lo skin, perché è il tema della discussione di oggi, offre molte soluzioni presenti e future di sviluppo. Dove sia skin dentro e fuori vediamo magari se deve essere vaschetta, se deve essere un cartoncino, se deve essere un'etichetta, se deve, a seconda dei paesi si può declinare. In effetti, e poi la parte di sostenibilità che per noi come azienda è assolutamente il punto, uno dei pilastri. Si ricicla questo skin, già che ci siamo? Allora, lì se iniziamo con lo riciclo apriamo quanto tempo abbiamo... Perché... Ci dia un'indicazione. No, allora, no, perché è stato sollevato anche questo punto, in effetti è un'ottima domanda. In effetti anche il consumatore va spiegato che ad oggi pochi imballaggi protettivi davvero che permettono di garantire una shelf life, una conservazione sullo scaffale, pochi sono detti veramente riciclabili, okay? Si tratta di metterli all'interno di una, anche perché non esiste il sistema attorno che riprenda ricicli, per cui tecnicamente, esagero un po', si può fare tutto, però ci vuole anche l'infrastruttura per poter riprendere, certo, raccogliere. Come è stato con il Tetra Pak, esatto. Per anni è stato a metà, che non si sapeva però, bene. Però a volte le scelte sono anche, va visto in tutta la catena, perché prendo un imballaggio a volte che è riciclabile, ma che non garantisce la conservazione, lo spreco di, per cui il valore dello spreco di carne, con tutto quello che viene associato in termini di sostenibilità, è molto maggiore di avere una confezione a sé non riciclabile, ma che permette di garantire di conservare la carne. La carne ha un impatto ambientale di un certo tipo. L'imballaggio può veramente indirizzare nel punto giusto e minimizzare l'impatto della sostenibilità della carne, dove appunto spesso si critica l'impatto, però molto si può fare, si sta facendo, e noi ci siamo attrezzati con metodi nuovi di analisi, perché ogni nuova soluzione da noi deve essere procurare una soluzione migliore da un punto di vista di sostenibilità di quella precedente. Certo. Per cui questo è sempre l'ambiente, la direzione. Bene, bene. Allora, direttore, noi ci dobbiamo salutare. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buona comunicazione a questo punto. Ricordiamo tutti quello che è successo l'anno scorso su quanto male fanno le carni. Insomma, comunicare è importante e anche leggere tutto fino in fondo, magari nelle ricerche. Assolutamente. Questo vale per noi come giornalisti, arrivare sempre fino alla parola fine, prima di dare un giudizio. Ringraziamo quindi François Tomei, direttore di Assocarni, e Didier Marteau di Sealed Air per essere stati con noi a Cibustec per questa lunghissima intervista. L'ultima parte la dedichiamo a un'azienda italiana specializzata nella lavorazione delle carni per il mercato. L'azienda si chiama Grasselli S.P.A. Noi abbiamo incontrato, sempre al Cibustec di Parma, Francesca Grasselli per parlare del loro approccio alla sostenibilità in questo campo. La nostra specialità è la produzione di macchinari per la lavorazione di carni fresche, per cui una parte è asportazione di membrane ecotenne, che è una famiglia di prodotto, e una seconda famiglia di prodotto legata al taglio, quindi tagliafettine, affettatrici industriali, per il taglio in qualsiasi forma, verticale, orizzontale, a peso. Che riguarda qualunque tipo di carne voi lavoriate, c'è la richiesta di evitare gli sprechi, comunque sia. Certamente è molto importante nel nostro settore la ricerca della massimizzazione dell'efficienza in tutte le sue declinazioni, dal prodotto, per cui con una riduzione dello scarto, per cui una massimizzazione del risultato, e ha una richiesta di sicurezza sia alimentare, nel senso di diminuzione del rischio di contaminazione del prodotto, sia una sicurezza dal punto di vista operativo di chi opera sulla macchina, per cui macchine che possano essere sicure nella loro configurazione. Si parla di un settore dove taglio, asportazione, si parla di lame, per cui è un settore di potenzialmente pericoloso. Sì. Un prodotto che voi cercate di mantenere sempre alla stessa temperatura. Noi cerchiamo di far funzionare le nostre macchine secondo le richieste del cliente, per cui se la richiesta è quella di lavorare un prodotto a una certa temperatura, perché è importante mantenere sempre una temperatura costante di lavorazione, noi adeguiamo noi la nostra macchina in modo tale che possa lavorare in modo efficiente alla temperatura di lavorazione richiesta dal cliente. Il rispetto del prodotto passa attraverso sicuramente la parte del mantenere una temperatura costante, ma anche attraverso altre attenzioni. Certamente anche attraverso il processo di lavorazione. Noi cerchiamo con le nostre macchine cerchiamo di mantenere, di rispettare al massimo il prodotto lavorato, per cui di non stressarlo troppo, di non pressarlo troppo, di rispettare la fibra della carne che andiamo a tagliare, in modo tale che il risultato finale sia qualitativamente più elevato. Quindi anche il taglio può influire sulla qualità finale della carne che io trovo? Certamente sì, la tipologia di taglio può certamente influire sulla qualità del prodotto finale. Grazie anche a Francesca Grasselli, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, l'altro pianeta @radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.